piazzo come al solito, sì. Poi gliele farò vedere all'esame, così sono tutte. No, questi lo fanno anche a te il fatto di registrarti. Sì, lo saprei. Che. Ma ti dà fastidio, no? E che anno sono, scusa? Primo anno della di scienze magistrali. Cioè, questi magistrali? No. Sembrano. Non sono magistrali, sono primo. Cioè questi hanno 19 anni? Sì. Dai, non sembrano più grandi. Scienze sociali per la globalizzazione, che non ha un esame di diritto internazionale. Ma sai, sono gemmati dei dipartimenti, come si diceva qualche anno fa. Hanno due esami. Gli studenti intelligenti facendo delle figure. Un esame di economia, di cui economia base che sta al terzo trimestre, quindi questo non capisco niente di quello. Poi c'è un'economia dello sviluppo e non c'è un esame di economia finanziaria. Scusa, ma di che stiamo parlando? No. Però c'è troppo vicino. Che per carità, tutta la mia simpatia, tutta la collega è una persona deliziosa, però scusami, mi sai dire il senso proprio scientifico di questa voce? Guarda, se loro sono un po' svegli, lo vedono subito, perché noi abbiamo un corso di relazioni internazionali, cioè un corso specialista di relazioni internazionali, tipo l'anno scorso, non aveva, che so, esami di sì, ma loro vengono per lamentarsi, perché quelli che li svegliano. I colleghi ricercatori, compresi i raggiunti, mi detestano. Ma io non capisco. Io non c'ero, io non sono. Il prezzo dell'uso criminale che è stato fatto. Perché se tu fai un'università, la funzione di gente che non può passare, e non la prima o poi lo paghi il prezzo. Adesso paga loro, cioè non è che io sto dicendo che non c'hanno ragione, io sto dicendo ragazzi la nave sta affondando, è inutile che fate il blocco. C'è stato uno scontro in Consiglio. Sì, molto bene, quindi ho spiegato con loro. Prima perché è sganciata da un'idea come. C'è la loro inchiesta dei ricercatori. Perché non esiste sta cosa, fa casi nota, o il mondo dell'università, insomma, su una cosa oppure. Tutti i problemi danno i soldi alle compagnie. Lo capisco, mica io, e io sono uno dei primi che sono interessato, essendo un cercatore, che hanno intenzione da 7 anni, quindi non è questo. Però, uno, non ha senso che questo casino sia un cercatore. Due, ma li leggi i giornali dopo che c'è stato un casino greco, per cui la BCE ti ha posto una serie di condizioni. Come pensi che questi possano portare, diciamo, tagliare i tagli? Terzo, che forma di lotta mi dai a inventare il blocco della quale al governo non è confronto di fare, ti metterà contro il cittadino e fuori dall'università, è una perdita di immagine, non degli uomini, e la fiducia c'è. Io gli avevo suggerito un'idea, cioè facciamo la battaglia, perché le facciamo un po', ma cerchiamo di creare di restare, poi gradualmente, però intanto parte ci vuole conoscere, ci vuole. Ma che tu fai sto casino dicendo dammi soldi eccetera. Senti, sono visto. Prima vengono a scuola, poi vengono a farsi in sapere. Poi verso 183esimo posto in tutto. Siamo sei. E allora, cosa che questi sono imbarazzati, in Italia ha fatto una mail dicendo non è vero che la nostra battaglia corporativa come un ricercatore ha detto il consigliere. Io non so dove pensi tu, secondo me non potranno andare niente. Non otterranno niente. Mi dispiacerebbe solo se il governo arrivasse a fare un decreto legge dell'Africa, perché quello mi obbligherebbe a dire no, lo faccio anche io, lo sciopero, non mi piacerebbe. No, vabbè, posizioni no, però in sé mi sembra una forma di rotta. Paolo, dove sta Paolo? senti un po', tu ne capisci niente di come funziona questo corso diabolico. Se mi accendi ste luci, quello è spento. Comunque questi, se mi interessa, la settimana scorsa gli ho portato Talia, che è responsabile, Italia, che è responsabile della Cina, la Cina, la geopolitica della Cina. Poi due settimane fa, e domani torna, gli ho portato l'Alberto Alberti, che gli ha fatto, ha spiegato che non sono una disinformazione. E poi ci sono un po'. Anzi, una volta volevo fare una cosa con te, con ma comunque sono stati trattati bene. Sì, io anche c'è amico intelligente di amico, lui mi guarda sempre con molto disponibilità per l'axiano. Allora è meglio che non lo vedi, perché no, se ti dà che l'axiano rischi di essere ucciso. Perché io sono un livello, grazie alla disciplina, però questa criminalizzazione di grazie, perché sia stato l'unico ambito della punta eccessiva, e comunque io ricordo con rispetto questo come quello di Spagna. E allora lui mi guarda con molta diffidenza e dice: tu sei scritto craxiano. L'ha scritto sulla dedica del libro. Sì, anche perché il suo mondo è ancora fatto di criptocraxiani che sono andato. No, ma la dedica è incarnato all'inizio al compagno Aldo, per apparenza, anche se un po' craxiano, esattamente su Giovanni. Beh, gioventù, avete finito la ricreazione? Sì, eh? Vabbè. Allora, come promessovi, oggi c'è una lezione del professor Alessandro Colombo, del quale vi ho parlato nelle lezioni precedenti, per cui non sto qui a ripetere le cattiverie dette sul suo conto nelle lezioni precedenti. Il terreno di discussione è il suo ultimo libro, La disunità del mondo, che è un libro un po' controcorrente, perché sostiene, sì, è vero che dal punto di vista dell'integrazione dei trasporti e dal punto di vista delle telecomunicazioni o anche del mercato si è creata una maggiore rete che integra il mondo, quindi una maggiore globalizzazione, ma dal punto di vista politico la liquidazione del precedente mondo bipolare e della sua architettura politico-diplomatica in realtà fa segnare una regressione sul piano politico ai processi di integrazione mondiale. Dopo, non voglio anticipare cose, giunge a una conclusione su quattro possibili scenari, che sono quelli su cui poi in qualche modo discuteremo. Adesso io lascerei la parola a lui per illustrare le sue tesi di fondo. Farò due o tre osservazioni io relativamente alla questione dei quattro scenari e poi, come sempre, è auspicato il fatto che voi interveniate con domande, interventi, eccetera. Va bene? Grazie. Allora, grazie anche a te per l'invito. Confesso che per me è un po' strano parlare del mio libro, per cui lo farò in poco tempo, l'ho già promesso, parlerò un quarto d'ora, 20 minuti. E non parlerò dei quattro scenari, magari lo lasceremo questo alla parte finale. Cercherò di spiegare semplicemente qual è l'impianto e quali sono le ragioni per le quali arrivo a queste conclusioni. Allora, il libro muove da tre premesse, che sono tre premesse sulle quali in realtà ho riflettuto per diversi anni. La prima premessa è una premessa che spero sia comprensibile, ma credo di sì anche per coloro che non hanno ancora sostenuto un esame di relazioni internazionali e che magari conoscono ancora per sommi capi l'approccio politologico alla politica internazionale. Ma la prima premessa è il fatto che la riflessione teorica e probabilmente anche il dibattito pubblico sulla politica internazionale da alcuni anni, da alcuni decenni a questa parte, si è tutta concentrata sul modo in cui è distribuito il potere. Quindi la prima domanda che ci poniamo per comprendere un contesto internazionale è come è distribuito il potere, o detto in un altro modo più semplice, quante sono e quali sono le principali potenze del sistema? E questa è una domanda importantissima, sia ben chiaro, noi non possiamo comprendere alcun contesto sociale senza sapere come è distribuito il potere al suo interno, chi è soddisfatto, chi non è soddisfatto, dove sono le principali diseguaglianze, perché lo studio della politica ha sempre a che fare con la diseguaglianza. Se non che in questa giusta ossessione per la distribuzione del potere è stato spesso trascurato e viene tuttora spesso trascurato un'altra dimensione, che è una dimensione altrettanto rilevante, e cioè il modo in cui è distribuito lo spazio. E la politica internazionale è fatta di spazio, e la politica internazionale, o per meglio dire tutte le relazioni internazionali, si svolgono nello spazio. E allora ecco la prima premessa. I tornanti storici fondamentali non sono soltanto quei tornanti nei quali avviene una redistribuzione del potere. Ci sono tornanti storici ancora più fondamentali, che sono quei tornanti storici nei quali lo spazio internazionale viene stravolto. Io faccio due esempi per comprenderci e perché sia evidente a tutti quanto le redistribuzioni dello spazio, le rivoluzioni spaziali, così sono state definite, investono completamente la realtà della politica internazionale, ma anche del diritto internazionale. E il primo esempio è il più scontato, e cioè la scoperta dell'America, la conquista dell'America, come preferite chiamarla. Allora, in quel momento non avviene una redistribuzione del potere. Le grandi potenze restano le stesse di 5 anni, di 10 anni prima, ma il loro ruolo di grande potenza comincia a cambiare radicalmente, perché si apre uno spazio immenso per le relazioni internazionali che prima non esisteva, perché da quel momento naturalmente la politica internazionale cambia completamente le proprie dimensioni, e perché, questa è una cosa sulla quale insisto sempre, cambiano tutte le categorie per comprendere la politica internazionale, a cominciare dalle categorie più importanti della modernità, e cioè quelle giuridiche. Voi sapete, credo, che esiste un rapporto essenziale tra la nascita del diritto internazionale moderno e la scoperta dell'America, che pone dei problemi nuovi, e pone dei problemi di organizzazione dello spazio che prima erano semplicemente inimmaginabili. E il diritto è uno dei nostri modi, uno dei modi prevalenti nella storia della modernità di organizzare lo spazio dal punto di vista politico e sociale. L'altra grande esperienza di rivoluzione spaziale è quella che abbiamo immediatamente dietro le spalle, immediatamente per, forse è un po' eccessivo, e cioè quella che avviene tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Quando il sistema internazionale comincia davvero a essere per la prima volta nella storia un sistema internazionale compiutamente globale. Non è un caso, ve lo accenno, forse qualcuno di voi è incappato in questa letteratura, che è proprio tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che si sviluppa quella branca molto controversa delle scienze sociali che è la geopolitica. E la geopolitica nasce e ha al proprio centro come programma la comprensione dello spazio, e lo spazio diventa oggetto di comprensione nel momento in cui diventa problematico. E tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento la politica internazionale cambia totalmente scala, le grandi potenze cambiano completamente la propria natura, e per tornare alla dimensione di prima, anche il diritto internazionale cambia totalmente. Quindi questa è la prima premessa, l'importanza dello spazio. E la seconda premessa è una premessa che mi ricollega a quello che è già stato accennato prima, e mi ricollega anche a quella che io ritengo essere una necessità di complicazione nel nostro discorso sullo spazio, o più specificamente nella metafora che noi usiamo più comunemente per parlare di spazio oggi, cioè la metafora globalizzazione. Ecco, una delle debolezze, io credo, del concetto, se così si può definire, di globalizzazione, è il fatto che la globalizzazione mischia tutto. Quando noi parliamo di globalizzazione intendiamo uno spazio globale, e intendiamo uno spazio globale che al proprio interno sembra non avere articolazioni. Lo spazio è globale dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista della comunicazione. Non è vero. Ecco, la seconda premessa è il fatto che esistono, non oggi, ma sempre nella storia, delle profonde articolazioni, delle profonde asimmetrie, delle profonde incoerenze, incongruenze tra spazi politici e spazi economici. Non è affatto vero che gli spazi politici e gli spazi economici abbiano sempre coinciso, né naturalmente è vero che gli spazi politici debbano necessariamente coincidere con gli spazi economici. Non è vero. Chi dice dal momento che esiste una globalizzazione economica avremo presto o tardi una governance globale, fa non soltanto un salto logico, ma dice un'assurdità storica. Perché la storia delle relazioni internazionali, la storia dei processi politici è una storia di continue asintonie, continue asincronie anche tra spazi economici e spazi politici. La terza premessa ha a che fare, questo sì, con il contesto internazionale che abbiamo immediatamente dietro le spalle, cioè il Novecento. Non solo la seconda metà del Novecento, la seconda metà del Novecento forse in modo più compiuto, ma già nella prima metà i segni sono inequivocabili. Perché il Novecento è un secolo nel quale questa articolazione paradossale tra spazi economici e spazi politici si pone in forma molto chiara e oltretutto in modo rovesciato rispetto a come si pone oggi. Il Novecento non è stato, malgrado quello che si continua a dire, non è stato affatto un secolo compiutamente globale sul terreno economico. Anche nella seconda metà del Novecento noi avevamo degli spazi economici sostanzialmente separati. Quando negli anni 70 si usava l'espressione che allora era l'espressione di cliché, un po' come oggi la parola globalizzazione, allora si parlava di interdipendenza. Ecco, quando negli anni 70 si parlava di interdipendenza, in realtà si intendeva il rapporto tra l'Europa, l'America e il Giappone, erano questi tre i sistemi economici strettamente interdipendenti. Ma esistevano degli spazi economici totalmente separati. Lo spazio sovietico e lo spazio dei paesi che stavano attorno all'Unione Sovietica viveva una vita economica totalmente separata da quella occidentale capitalista. Così come dopo la rottura tra i due grandi paesi, lo stesso spazio cinese viveva una vita totalmente separata non soltanto da quella capitalista occidentale ma anche da quella sovietica. Quindi potremmo dire che nella seconda metà del Novecento l'economia internazionale viveva la coesistenza tra tre mondi diversi. Ma la stessa cosa non vale dal punto di vista politico, perché questa è la premessa più forte, se vogliamo, di questo libro. Dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista strategico e dal punto di vista ideologico, il Novecento è un secolo perfettamente globale, anzi è il secolo globale. Se noi parliamo di globalizzazione invece che dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, la globalizzazione noi la troviamo lì. E per quale ragione possiamo parlare del Novecento come di un secolo compiutamente globale, anzi direi sempre più globale fino alla catastrofe del 1989-91? Primo elemento di globalità. Il Novecento ha vissuto una globalità, direi, opprimente sul terreno diplomatico e strategico. E il riassunto della globalità opprimente che il Novecento ha vissuto sul terreno diplomatico e strategico sono le guerre che non a caso abbiamo definito mondiali. Allora, parlare di guerra mondiale significa riconoscere la globalizzazione delle relazioni diplomatiche e strategiche. La guerra è mondiale perché le relazioni sono mondiali. E se questo vale per la prima e la seconda guerra mondiale, questo vale a maggior ragione naturalmente per la guerra fredda. E non dimentichiamoci che la guerra fredda è stata una vicenda ancora più compiutamente globale delle due guerre mondiali che l'avevano preceduta. Per la semplice e ovvia ragione che la guerra fredda si giocava ovunque, che per effetto della guerra fredda tutti i sistemi regionali erano dominati dalle stesse due grandi potenze. E poi la cosa più importante, quella che noi, voi, credo ancora più di me, rischiate di perdere di vista. Il Novecento è stato ossessionato fino alla fine dal timore della escalation dei conflitti regionali in una guerra che avrebbe avvolto tutto il mondo. E questo era il segmento di globalizzazione per eccellenza del Novecento. Allora, quello che teneva insieme dal punto di vista diplomatico e strategico il Novecento era il timore, a volte il terrore della guerra. Il terrore della guerra comune, non le guerre regionali. Pensate, dal punto di vista anche nostro, europeo, all'esperienza simbolo, la crisi di Cuba del 62, una crisi regionale, locale come più non avremmo potuto immaginarcela fino ancora a qualche decennio prima. Ma la consapevolezza in tutto il mondo che l'esito di quella crisi avrebbe investito tutte le altre aree regionali. Questa era la globalità del Novecento. Il Novecento è stato un secolo globale non soltanto per questo, ma anche dal punto di vista istituzionale. Non dimentichiamoci che tutte le istituzioni internazionali di oggi, che sono istituzioni di portata universale, sono istituzioni novecentesche. E prima del Novecento non era minimamente immaginabile l'esistenza di istituzioni internazionali universali. L'Europa ha sempre conosciuto le proprie istituzioni, ma le istituzioni europee, le istituzioni che regolavano la politica internazionale in Europa, erano istituzioni europee che valevano in Europa ma non valevano altrove. E nel Novecento noi abbiamo visto la proliferazione di istituzioni per la prima volta universali. E universali sia per il proprio raggio d'azione sia per la propria membership, cioè istituzioni i cui membri non erano soltanto, come fino alla fine dell'Ottocento, le potenze europee, ma erano potenze di tutti i continenti e di tutte le culture. E poi, per ultimo, altro aspetto che a me sembra di grandissimo rilievo e che credo che oggi sia trascurato: il Novecento è stato un secolo globale dal punto di vista dei linguaggi. Non facciamoci ingannare da questa sorta di globalizzazione voyeuristica che passa per internet. Il Novecento era molto più interconnesso di oggi dal punto di vista dei linguaggi, perché il Novecento disponeva di una cosa di cui oggi non disponiamo più, cioè di linguaggi universali. Dal punto di vista politico, i conflitti del Novecento sono conflitti universali, nel senso che vengono combattuti con le stesse parole in tutte le aree regionali. Pensate ai due grandi vettori di universalizzazione linguistica del Novecento, almeno dal punto di vista politico: lo scontro tra il comunismo in tutte le sue articolazioni e la democrazia liberale e i fascismi dall'altra parte, e poi naturalmente la decolonizzazione. Allora, queste due cose attivano degli antagonismi politici che, anche quando non sono identici, e quasi mai sono identici, si capiscono. Allora, il conflitto che avviene in Vietnam, il conflitto che avviene in America Latina, il conflitto che avviene in Medio Oriente sembrano essere lo stesso conflitto, sembrano, non è vero che sia così, ma il fatto che lo sembrino dal punto di vista politico, dal punto di vista dei rapporti sociali, è fondamentale, perché consente una circolazione dei conflitti, perché consente una contaminazione di linguaggio, perché consente di credere, anche quando si sbaglia, che gli uomini delle altre culture, gli uomini delle altre regioni possano essere sedotti, convinti, portati dalla nostra parte. Allora, se queste sono le premesse, sarò breve, anche se come al solito mi sto dilungando più di quello che avevo previsto. Allora, se queste sono le premesse, quali sono, molto rapidamente, i temi fondamentali di questa riflessione? Allora, prima conclusione, prima potremmo dire interpretazione del contesto internazionale attuale. Se voi guardate una qualunque rivista di relazioni internazionali, ma anche se seguite anche abbastanza distrattamente il dibattito pubblico, voi vi renderete conto che la definizione dell'attuale contesto internazionale passa quasi sempre per l'espressione post-bipolare. Noi parliamo del contesto internazionale attuale come di un contesto post-bipolare. E la domanda fondamentale che ci poniamo, per esempio, ce la siamo posta con insistenza anche ridicola al momento della vittoria di Barack Obama alle ultime elezioni degli Stati Uniti, è se il sistema internazionale del futuro sarà un sistema unipolare o multipolare. In altre parole, la domanda che ci poniamo è come sarà distribuito il potere. E l'unica affermazione che ci sentiamo di fare sull'attuale contesto internazionale è che il sistema internazionale attuale non è più bipolare, cioè non è un sistema internazionale dominato da due grandi potenze. Quello che affermo, al contrario, in questo libro è che l'attuale sistema internazionale è incomprensibile se non si tiene conto che, al di là di questa distribuzione del potere, che è importante, è avvenuta una nuova grande rivoluzione spaziale. Cioè che tutto il contesto geopolitico delle relazioni internazionali è stato sconvolto dalla fine del Novecento e per molti versi non si è ancora riassestato. Noi viviamo nel pieno di una catastrofe geopolitica che non si è ancora assestata. Quali sono, tanto per cominciare, le tracce più superficiali di questa catastrofe? Ma tanto per cominciare, sono nati nuovi sistemi regionali. Dei sistemi regionali che non esistevano, oggi esistono, e esistono in forme politicamente molto rilevanti. Faccio alcuni esempi. L'Asia centrale. L'Asia centrale non esisteva come sistema regionale fino al 1989, perché l'Asia centrale era parte dell'Unione Sovietica. Pensate al sistema internazionale regionale del Caucaso, non esisteva neppure quello. Oppure pensate, anche senza andare sulle rovine dell'Unione Sovietica, pensate a quello che è avvenuto in Europa. Fino al 1989 noi ci immaginavamo un'Europa dell'Est, una vaghissima Europa dell'Est, che racchiudeva sotto una stessa etichetta il sud dei Balcani e i paesi baltici. Oggi credo che nessuno di voi si immagini di mettere i paesi baltici e il sud dei Balcani nella stessa area regionale, perché l'Europa dell'Est di impronta bipolare si è scomposta, e sulle rovine di quell'Europa dell'Est sono risorti una serie di sistemi regionali più piccoli che stanno prendendo forma e che stanno prendendo organizzazione. Non solo, sta avvenendo, e noi dall'Europa lo dobbiamo vedere, perché è la cosa più importante che ci sta riguardando, molto più importante del processo di integrazione europea, che è un processo difensivo. Non si capisce nulla se si perde di vista questo aspetto difensivo del processo di integrazione. E sta cambiando completamente il peso delle rispettive regioni. E quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni è la fine definitiva di tutto quello che restava della centralità europea. Tutto il Novecento è il calvario della centralità europea, e dal punto di vista delle relazioni internazionali non c'è dubbio alcuno che la fine della centralità europea sia il processo storico più rilevante del Novecento, perché disarticola tutto. Il Novecento si apre con l'Europa al centro delle relazioni internazionali e si chiude con un'Europa angosciata e perfettamente consapevole che di qui a 50 anni sarà, nella migliore delle ipotesi, un'area come le altre. E poi, questo è in realtà la cosa sulla quale mi concentro, quello che sta cambiando è il tipo di connessione tra i sistemi regionali. Cioè la connessione perfettamente globale della quale vi ho accennato prima, cioè il Novecento come secolo globale, il Novecento nel quale tutte le grandi vicende si svolgono su scala globale e tutte le aree regionali sono più o meno strettamente connesse in questa vicenda. Ecco, questo tipo di connessione sta totalmente saltando. E qui andiamo all'interpretazione dell'attuale contesto internazionale sulla base di quella dicotomia che vi ponevo tra spazio economico e spazio politico. Ecco, è su questo ancora una volta che credo che l'espressione globalizzazione sia fuorviante. Perché negli ultimi 20 anni lo spazio economico e lo spazio politico hanno percorso due traiettorie completamente diverse, direi quasi opposte. E dal punto di vista economico non c'è dubbio che lo spazio internazionale oggi sia più globalizzato che 30 anni fa. Per una serie di ragioni, sia di carattere tecnologico, pensate alla rivoluzione informatica, sia di carattere politico, e questo è uno degli effetti principali della fine del bipolarismo e del riassorbimento della lacerazione ideologica del Novecento. Spazi che prima erano preclusi al mercato, oggi sono stati investiti dal mercato. Se non che dal punto di vista politico le cose non sono affatto andate così. E dal punto di vista delle relazioni strategiche, diplomatiche e ideologiche tra gli attori, noi stiamo vivendo una scomposizione crescente del sistema regionale. Andiamo a vedere le tre dimensioni che vi accennavo prima. La prima, quella diplomatica e strategica. E oggi sta avvenendo, io direi che è già molto avanzato questo processo, e sta avvenendo un processo di ridislocazione del peso tra dinamiche globali e dinamiche regionali. Oggi le dinamiche regionali contano molto di più delle dinamiche globali. Oggi non abbiamo più il timore di una guerra globale, non possiamo credere seriamente che l'Iran costituisca una minaccia globale. Al massimo costituisce, se lo costituisce, una minaccia nella sua regione. E noi stiamo assistendo a quello che sta avvenendo tra Corea del Nord e Corea del Sud in un modo totalmente diverso da come avremmo guardato la stessa cosa nel 1970. Nel 1970 noi in Europa saremmo stati terrorizzati da quello che avveniva. perché uno scontro tra le due Coree avrebbe avuto un impatto immediato anche su tutte le altre regionali. Oggi noi sappiamo con certezza che nella peggiore delle ipotesi Corea del Nord e Corea del Sud si faranno la guerra, coinvolgeranno altre potenze della loro regione, ma non coinvolgeranno noi. È diventata una dinamica perfettamente regionale. Il timore della guerra globale, che è stato il timore vero del Novecento, non c'è più, la fantasia dell'amministrazione di George Bush. Io credo la ragione fondamentale per la quale la politica estera di George Bush è stata un disastro. Il principale elemento di debolezza di quell'amministrazione è l'invenzione della guerra globale al terrore. Quando voi sentite quell'espressione, che non a caso Barack Obama non usa più, ma l'espressione guerra globale al terrore non era definita dalla parola terrore, era definita dall'aggettivo globale. L'idea forte di George Bush era la convinzione che potesse ancora esistere una vicenda globale in grado di tenere insieme le aree regionali. Ma quella era una forzatura teorica, e le forzature teoriche sul terreno politico sono destinate a trasformarsi in disastri, perché la guerra globale non era globale, e questo è il problema della guerra al terrore. E lo stesso vale per le istituzioni. Noi facciamo un gran parlare di istituzioni universali, di governance globale, ma guardiamo com'è ridotta la governance globale. E lasciamo perdere l'aspetto prescrittivo, che non mi interessa. Le grandi istituzioni universali del Novecento sono a pezzi. Pensate come l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha tentato di gestire in modo fallimentare tutti i grandi conflitti degli anni 90. Pensate a come noi stessi ci siamo abituati alla totale assenza delle Nazioni Unite nella questione palestinese. Pensate a come le grandi organizzazioni universali economiche si siano fatte trovare clamorosamente impreparate di fronte prima alla crisi asiatica del 97 e poi alla grande crisi economica e finanziaria del 2007-2008. Oppure pensate anche a un'altra cosa che a me interessa di più, trattando io di pace e di guerra sostanzialmente. Pensate a come si stanno regionalizzando le missioni di pace. Perché noi continuiamo a dire la pace è un valore universale, i diritti umani sono un valore universale. Ma poi chi va concretamente a difendere questo valore universale? Chi è che svolge per esempio le missioni di pace nel continente africano? I paesi europei o gli Stati Uniti sulla base dei propri principi universali? Ma niente affatto, sempre di più i paesi africani. In altre parole, c'è un processo progressivo di regionalizzazione. E poi soprattutto i linguaggi, non facciamoci ingannare, non facciamo confusione tra strumenti e linguaggi. Noi abbiamo degli strumenti molto più efficaci di quelli di cui disponevamo nel Novecento, internet più forte del telefono. Ma noi non abbiamo niente da comunicare per internet. I conflitti oggi hanno preso traiettorie totalmente diverse, linguaggi totalmente diversi, metafore totalmente diverse, simbologie totalmente diverse. Faccio il solito esempio che faccio comunemente, perché credo che sia particolarmente significativo, la questione palestinese. La questione palestinese non aveva negli anni 60, negli anni 70, il vantaggio di poter essere raccontata attraverso internet, impresa diretta, senza il controllo da parte di una serie di attori che possono controllare le immagini, ma oggi sempre di meno. Allora si è avvicinata la questione palestinese per questa ragione, ma niente affatto. Perché negli anni 60 e negli anni 70 non ci sarà pure stato internet, ma la questione palestinese veniva declinata dal movimento nazionale palestinese con un linguaggio, quello nazionalista e quello socialista, che era lo stesso linguaggio che si parlava in tutte le altre aree regionali. Ed era quel linguaggio che assicurava a quella questione, a quelle rivendicazioni, una capacità di circolazione che oggi non ci immaginiamo neppure. E non fatevi ingannare da quello che si continua a dire, mentendo spudoratamente, e cioè che Hamas avrebbe cambiato i termini della questione. Non li ha cambiati affatto. Le rivendicazioni di Hamas, l'indisponibilità per esempio di Hamas a riconoscere lo Stato israeliano, ma è la posizione ufficiale del Movimento Nazionale Palestinese fino alla fine degli anni 80. Allora non è cambiato il ventaglio delle rivendicazioni, non è cambiato neppure il modo di esprimere il rifiuto, è cambiato il linguaggio. Hamas esprime queste cose con un capitale simbolico che non è più il nostro, che non è più quello che si usa in America Latina, che non è più quello che si impiega in Asia orientale. Cioè un capitale simbolico che impedisce o intralcia la circolazione del conflitto. Tutto questo ha una serie di conseguenze, questa è l'ultima cosa sulla quale andrò invece molto molto velocemente. Che cosa significa, quali sono le conseguenze più elementari, ma non per questo le meno invasive, di questa dislocazione dello spazio politico globale del Novecento? Prima conseguenza, è quella più comunemente riconosciuta, è inevitabile, e probabilmente lo sarà sempre di più, che l'incoerenza tra spazio economico e spazi politici produca una crisi di razionalità di tutte le agenzie di regolazione, a cominciare dallo Stato naturalmente, ma non soltanto lo Stato, anche le istituzioni internazionali. Seconda conseguenza, il fatto che si stia alterando, si stia quasi invertendo il peso relativo delle dinamiche globali e delle dinamiche regionali fa sì che le differenze di potere all'interno delle singole regioni pesino sempre di più. Cioè che differenze di potere che all'epoca del bipolarismo potevano essere trascurate, oggi non possono più essere trascurate. E quando una differenza di potere che era stata trascurata comincia a essere al centro delle nostre preoccupazioni, allora è inevitabile che nascano competizioni e potenzialmente anche conflitti. Faccio due esempi totalmente diversi. Medio Oriente. Quello che sta avvenendo in Medio Oriente non ha a che fare con l'oggi, ha a che fare con il futuro. È ridicolo naturalmente dire che ciò che avviene in Medio Oriente oggi sia una lotta per l'esistenza dello Stato di Israele. Nessuno può minacciare lo Stato di Israele. Israele da solo è nettamente più forte di tutti i paesi della regione. Allora per quale ragione Israele è entrato in una fase di panico e probabilmente anche di paranoia nella propria posizione? Perché Israele non pensa a oggi, pensa al futuro. E Israele pensa a un sistema internazionale nel quale le dinamiche globali vengono progressivamente separate e ciascuna regione prende traiettorie diverse, proprie. A questo punto cambia totalmente il peso di Israele. Perché un conto è Israele saldamente integrato in uno spazio globale nel quale beneficia della protezione degli Stati Uniti e della simpatia dell'Europa. E tutt'altro conto è Israele che si immagina tra 50 anni gettato in un Medio Oriente disconnesso dalle altre aree regionali. Oppure pensate all'Europa. Come si può continuare a raccontarsi la storia patetica che il processo di integrazione europeo è in crisi perché c'è stato l'allargamento? Il processo di integrazione europeo è in crisi perché i paesi europei sono molto meno disponibili di quanto non fosse all'epoca del bipolarismo a farsi concessioni reciproche. Perché noi ci poniamo un problema che all'epoca del bipolarismo non ci ponevamo, cioè chi conterà di più e chi conterà di meno. Pensate a quante volte usiamo l'espressione direttorio. Pensate a quanto è ipocrita la retorica italiana sul processo di integrazione europeo. Noi da un lato siamo entusiasti del processo di integrazione, dall'altro lato siamo terrorizzati di restare fuori dal direttorio. E questo terrore è un terrore che oggi pesa infinitamente di più che nel 1980, proprio perché le dinamiche regionali pesano infinitamente di più di quanto non pesassero negli anni 80. Ultima conseguenza, poi chiudo davvero. Se è vero, nella misura in cui è vero, che le dinamiche regionali pesano sempre di più e le dinamiche globali sempre di meno, allora noi ci dobbiamo aspettare quello che abbiamo già constatato negli ultimi mesi e negli ultimi anni, e cioè una crisi di efficacia e di legittimità delle agenzie di regolazione globale. Ecco, le istituzioni globali, pensate per dare risposte globali, si trovano in difficoltà una volta che gli attori che aspettano queste risposte non pensano più in termini globali, ma pensano in termini regionali. Chiudo qui, se no non finiamo più. Dunque, io ero convinto che non ce l'avresti fatta in un quarto d'ora, perché conoscendo il tuo libro, sapendo quanto è fitto di argomenti, di idee, eccetera, devo dire, sei stato anche molto bravo, però molta roba è rimasta ancora fuori. Certo. Quindi, ero convinto di questo, ma non ti ho voluto contraddire perché temevo che tu mi dicessi no, allora non faccio la lezione. Allora ho detto, no, perché hai fatto? Quarto d'ora fai pure. Allora, il punto d'approdo del libro di Alessandro Colombo è quello di disegnare quattro possibili scenari di riorganizzazione dello spazio mondiale in un prossimo futuro. Un primo scenario, uno spazio gerarchico e cosmopolitico, a guida, diciamo, capitalista democratica. Sostanzialmente è quello che io vi ho dipinto nella lezione sul conflitto di civiltà, eccetera, come l'ipotesi dell'impero monopolare. Il secondo scenario è una variante di questo, uno spazio gerarchico ed egemonico, cioè una governance da parte del blocco degli alleati occidentali, cioè gli Stati Uniti insieme ai loro tradizionali alleati, l'Europa, da vedere il Giappone, perché, ed è una variante sostanziale del primo modello di impero. Poi c'è l'ipotesi di uno scenario multicentrico e competitivo basato sui grandi spazi regionali, è quello che io vi ho descritto come il club dei 7-8 imperi, grandi potenze regionali, la Cina, l'India, il Brasile alla testa delle rispettive aree di interesse regionale, e poi un club che tiene insieme il tutto più o meno in qualche modo. Infine, l'ipotesi per certi versi anche più allarmante, che pone più interrogativi, uno spazio accentrato e caotico, contaminazione reciproca tra spazi regionali eterogenei. Cioè in realtà confini slabrati e reciproca interdipendenza attraverso vettori vari, dalla comunicazione all'immigrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, alcune osservazioni mie, poi subito dopo parlate voi, poi alla fine. Primo, ma d'accordo che stiamo tornando, al di là della mia forte diffidenza rispetto all'espressione geopolitica, che anche se non riduco semplicemente alla sua vocazione nazista, fra virgolette, perché anche le teorie del Rimland della Marina americana erano teorie geopolitiche, anche se sicuramente non naziste, però in comune avevano una cosa, l'idea del dominio, del controllo sullo spazio, dell'affermazione della propria centralità. Quindi in realtà, più che una disciplina, la geopolitica mi sembra piuttosto un progetto di natura imperiale, di natura... Ecco, quindi, ma al di là di questa mia diffidenza sul fatto del se non sarebbe più opportuno, se non fosse più opportuno trovare un'espressione meno caratterizzata politicamente, più neutrale scientificamente al termine geopolitica. Allora, d'accordo sul fatto del ritorno dell'importanza dello spazio, però dalle stesse cose che dici tu, il problema della rottura dei linguaggi che si è realizzata pone il problema anche in termini di conflitti fra spazi e identità. Il mondo cosiddetto globale è un mondo in cui si riafferma molto di più il problema della definizione della propria identità. Il fondamentalismo, per esempio, in qualche modo è riconducibile a queste esigenze. Hamas cambia il codice simbolico e anche perché in qualche modo c'è un processo identitario diverso rispetto al contesto internazionale. In qualche modo anche la nascita del blocco della regione centroasiatica e anche il problema di ridefinire un'identità culturale distinta fra russi e cinesi fondamentalmente. Ecco, se allora il problema è l'identità, lì poi anche l'idea di spazio viene a cambiare. C'è per esempio un'idea, ve l'ho detto quando abbiamo parlato delle dimensioni della sicurezza nazionale, io vi dissi che all'inizio erano il territorio inteso come piattaforma continentale, acque territoriali, dopo lo spazio aereo sovrastante, quindi il sottosuolo, eccetera, eccetera. Alla fine abbiamo aggiunto anche delle dimensioni un po' diverse, l'infospazio e lo spazio inteso come stratosfera. Ora, non so se esattamente si possa parlare di una dimensione spaziale in questo senso, o se il termine spaziale vada inteso solo come metafora. Di fatto, però, sicuramente sono tutte e due dimensioni della sicurezza nazionale, a cui io aggiungerei una terza, che è quella ambientale del clima. Ora, queste sono dimensioni per loro natura non sottoponibili a confini, non ci sono confini possibili. Si tratta di domini non divisibili. Mentre il territorio voi potete riservare una fetta a uno e una fetta all'altro e stabilire un confine, nell'infosfera non ha senso una cosa del genere. O la controlli o non la controlli, o è un controllo condiviso o è il controllo di alcuni o di qualcuno. È difficile stabilire delle barriere. Peggio ancora il clima. Se si produce un disastro climatico per quello che fanno i cinesi, la famosa nube, questo immediatamente minaccia la sicurezza dei vicini. O molti altri esempi li ho fatto a questo proposito. Ancora, anche lo spazio, lì addirittura il problema è opposto. C'è troppo spazio per stabilire dei confini. In realtà quello che interessa a ciascun soggetto è la traiettoria dei propri satelliti e la sicurezza del sistema in questo senso. Quindi anche lì è difficile stabilire quale confine, che senso ha il confine in un contesto del genere. E allora il problema sì è quello dello spazio, ma va ripensato in termini diversi dal passato, che accentuano il rischio di caos e il rischio di crisi della razionalità delle agenzie. Anche perché il Novecento ci ha fatto un altro regalo. Guardate, nella storia c'è un'antica tradizione di alleanze politico-militari, c'è sempre stata. La novità del Novecento è che tutto questo ha dato luogo a organizzazioni transnazionali o internazionali. Tutto questo ha dato luogo a, per esempio, la NATO. E era una cosa che non è mai esistita prima, che ci fosse una messa in comune degli apparati difensivi da parte dei più paesi. La triplice alleanza e la triplice intesa non erano questo. Sì e no, si arrivava a un qualche comando congiunto sul campo di battaglia nel caso di eserciti che confliggevano insieme. Sì e no, e sempre con qualche problema. Tutto questo ha proiettato una dimensione settoriale che è quella che attraversa poi lo spazio. Vi ricordate che io vi ho parlato anche del problema della dimensione del globale, non è opposto soltanto al locale, è opposto anche a settoriale. Abbiamo detto come globale può avere una doppia e una polisemia che ha appunto più significati, il termine che ha più significati è per esempio in questo caso si riferisce all'opposto a settoriale. Se è questo, ne ricaviamo ulteriori indicazioni, perché se la tendenza è questa, ancora di più avremo una non coincidenza di spazi, non solo fra spazio politico ed economico, ma per esempio anche spazio culturale, per esempio anche spazio informativo. In qualche modo, è un singolo aspetto della questione informativa, uno spicchio appena, però guardate, questo già in qualche modo si era prodotto addirittura durante la guerra fredda, dove avevi da un lato il patto di Varsavia e dall'altro la NATO, però poi a un certo punto veniva fuori un coordinamento dei servizi segreti come il Club di Berna, al quale partecipavano, a parte Israele, anche i servizi segreti rumeni, che facevano parte dell'altra alleanza. Quindi già queste alleanze a incrocio, a geometria variabile, avevano seppur timidamente iniziato ad affacciarsi nei primissimi anni Ottanta. Oggi questo si impone ancora di più. Tu fai una considerazione, aspetta che devo ritrovare, da quando mi hanno fregato il tuo libro sono saltati tutti i post-it. Lo sapete, ma il libro del professor Colombo va a ruba, me ne hanno rubate già due copie. e quindi sono saltate. Beh, tu fai l'esempio di alcune ridefinizioni di confini regionali, per esempio per quanto riguarda il Sud America, l'opposizione fra il progetto americano di un'area di libero scambio che includa tutte e due le Americhe, il Mercosur e l'alleanza bolivariana. Queste tre idee che, a pensarci bene, sono tre progetti che muovono da motivazioni diverse. Gli Stati Uniti hanno una dominante essenzialmente economica, ma naturalmente c'è anche una dimensione politica. Il progetto del Mercosur, che allea Argentina, Paraguay, Uruguay e Brasile, ha in realtà una dominante politica più che economica. Il progetto dell'alleanza bolivariana, Cuba, Venezuela e recentemente ci è associata anche la Bolivia, è invece un progetto che ha una dominante, direi, piuttosto ideologica. C'è più la caratterizzazione del vento anti-americano che anti-nordamericano, la sombras del nord, come dicono, che attraversa gli stati dell'America Latina da una quindicina d'anni. Ora, come vedete, sono modi diversi di atteggiare la propria identità come soggetto economico o politico, ideologico, eccetera, che si incrociano e si sovrappongono parzialmente fra di loro. Quindi la cosa più probabile è che noi avremo non soltanto dei progetti, ma avremo anche una traduzione organizzativa a scavalco l'una dell'altra. Anche questo mi fa pensare all'ipotesi caos, cioè di un sistema accentrato come il possibile punto di approdo più probabile nel prossimo futuro. Anche perché il primo progetto, quello dell'egemonia americana, credo che dal 2008 in poi sia entrato seriamente in crisi. Non credo che ci sia più nessuno che decentemente sostenga il progetto del nuovo secolo americano con grandi possibilità di riuscita. Il progetto dell'alleanza con i paesi tradizionalmente occidentali, anche quello mi sembra abbastanza in crisi, se prendo atto della guerra monetaria che gli Stati Uniti stanno facendo all'Europa, abbastanza evidente. Potrebbe esserci l'ipotesi del club dei 7-8 imperi, e cioè l'idea delle aree regionali. Questo però comunque dovrebbe fare i conti, superare il problema dell'ordine monetario internazionale, e non mi sembra di capire che a quell'orecchio gli americani ci sentano. Quindi ho l'impressione che il quarto scenario finisca per affermarsi più per esclusione reciproca degli altri. Va bene, queste sono solo alcune osservazioni. Adesso vediamo voi che ci avete da dire. Ah, un momento. Uno, due. Vabbè, per mo' voi due. Forza Bettigiani. Allora, la mia è un'osservazione, innanzitutto sui quattro nodi. Ecco, mi sembrano interessanti tutti e quattro. Mi sembra che dal punto di vista delle relazioni internazionali ci sono paesi che già cercano una collocazione in questi scenari. Mi viene in mente, mentre Obama comunque cerca, perlomeno la mia interpretazione, un'egemonia fondata sul multilateralismo, abbiamo una politica estera indiana che vede già il mondo diviso in tre cerchi, mi viene in mente l'IMS, e appunto in cui abbiamo prima il cerchio più stretto con l'influenza cinese e poi il cerchio più ampio e poi altri sistemi regionali dominati dal Brasile, da Sudafrica, quindi già piuttosto che dalla Russia, e quindi già in pratica mettono, come dire, è importante secondo me considerare come questi scenari vengono interpretati e fatti propri dalle varie potenze per vedere quale potrebbe essere quello che verrà a dominare. Poi mi sembra che ci sia una costante nella politica, nell'analisi delle relazioni internazionali, che è la ricerca quasi ossessiva di punti di stabilità, di punti fermi, laddove questi tendono a essere fragili. Mi viene in mente la ricerca del G2, tutta la teorizzazione del G2, con appunto, la ricerca di punti fermi che in realtà sono semplicemente una fase, secondo me, una fase che può essere passeggera delle relazioni internazionali. Però secondo me non dobbiamo essere né troppo ossessivi nel ricercare queste costanti, né dobbiamo vedere una mancanza totale di interconnessioni tra i vari sistemi regionali che invece potrebbero sussistere, interconnessioni che non siano per forza pacifiche. Mi viene in mente l'elemento connettivo del mare e quello che potrebbe essere l'Oceano Indiano, in cui abbiamo sistemi regionali completamente differenti dall'Asia del Sud, piuttosto che l'Asia Pacifico, piuttosto che gli estremi sembra ci sia quasi una corsa all'aria con la Turchia che dopo aver richiesto l'ingresso all'Unione Europea torna a essere un elemento influente nell'area, pur non essendo strettamente nell'oceano indiano, con l'India che prima fino all'800 era una appendice meridionale dell'Europa che torna a porsi come ruolo influente in Asia, e di conseguenza mi sembra possa tornare a esserci un nuovo punto cardine perlomeno della zona asiatica. Molinelli. Io volevo chiedere un chiarimento al professor Colombo riguardo alla sua concezione della non globalità dell'economia nel Novecento. E riguardo questo, collegandomi, volevo chiedere cosa pensa lei dell'analisi principalmente economica di Wallerstein del sistema mondo. E ricollegando la domanda di prima, lei pensa che questa non globalità dell'economia caratteristica del Novecento sia attuale ancora nei primi secoli, nei primi anni del nuovo secolo? Forza ragazzi, tanto so già chi perché deve intervenire, perché guardate in faccia. Chi c'è? Che è successo? Il professor Colombo vi ha intimidito. Se non rispondo, comincio a rispondere. Forza, guarda. Facciamo il primo gruppo, che tanto. Sì. Allora, secondo, premetto che appunto penso come il professor Giannulli che i due scenari, i primi due scenari appunto che riguardano una egemonia americana o bipolare o in collaborazione con l'Europa mi sembrano un po', sono superati dai fatti, diciamo. Però sia per quanto riguarda gli altri due, io vedo un'alternativa intermedia rispetto al fatto che ci venga a crearsi un club dei sette imperi con aree regionali, con già delle potenze definite molto forti, Brasile, India, Cina, Russia, eccetera, eccetera, e poi sì, gli stati dominanti, non so, Germania, facciamo un'ipotesi, e poi Stati Uniti e Nord America, e un caos totale. Nel senso che, secondo me, prima che si affermi un ordine nuovo, cioè che anche il caos, anche l'anarchia è un sistema di ordine, alleanze geometriche variabili, eccetera, eccetera. Secondo me ci sono alcuni fattori che bisogna tenere in considerazione. Il ruolo, principalmente due. Il primo è il ruolo dello Stato nazionale, appunto per quanto riguarda la disunità, la divisione tra spazio economico e spazio politico. Secondo me questa era possibile in un periodo di abbondanza di risorse. Adesso con appunto tutte le varie crisi di altro tipo che non siano politico-strategiche, crisi appunto climatiche, ambientali, climatiche alimentari, eccetera, eccetera. Secondo me c'è la necessità da parte dello Stato nazionale e alcune tendenze si sono viste, perché l'anti-americanismo in Sud America, i vari Chavez, Morales, eccetera, eccetera, sono anche, secondo me, sinonimo, il loro nazionalismo, il loro socialismo, la loro versione socialisteggiante del nazionalismo, anche se un sinonimo del fatto che gli stati hanno l'esigenza a riappropriarsi delle risorse che vengono sottratte o che vengono gestite dalle grandi multinazionali, da questo spazio economico, e che quindi siccome o lo Stato ha a disposizione, cioè penso anche agli stati nazionali recenti, cioè in via di formazione. Adesso io non so, siccome la storia c'è sempre garantita a grandi ondate, come dire, una ridefinizione dei confini, anche gli eventi, no? le spaccature su linee etniche identitarie che hanno sostituito appunto la grande spaccatura fra comunismo e democrazia liberale, capitalismo. E bisogna vedere se gli attori in gioco saranno sempre gli stessi, perché ci sono molti paesi, non so, per esempio l'Iraq, ma moltissimi altri che sono ostaggio di, come dire, sono divisi e sono ostaggio di minoranze regionali che hanno poi tutti i collegamenti internazionali, eccetera, eccetera. Quindi secondo me, prima che si venga creato un ordine di questo tipo, bisogna aspettare un certo periodo in cui si ridefiniscono quali stati riusciranno a sopravvivere, cioè se si formeranno delle nuove identità politiche statuali nazionali, appunto da questa frammentazione etnica e identitaria, e quali riusciranno a tenere sul proprio territorio, cioè non a riuscire a delocalizzare in altre parti dove il costo del lavoro è minore, le loro attività produttive. Vuoi rispondere a questo primo blocco? Questo primo blocco ti è andata bene, perché di solito sono più cattive. Allora, in realtà ci sono molte cose anche molto eterogenee, per cui sarò inevitabilmente disordinato nella risposta. Comincio dalla geopolitica. Anche a me non piace l'espressione geopolitica, in realtà per una ragione molto diversa, e cioè perché è usurata, perché è abusata, perché è diventata una parola di moda, e per questa ragione non mi è simpatica. Eh, Sul piano però dei contenuti, io credo che la geopolitica abbia sì quello che dicevi tu, cioè un elemento prescrittivo. Chi fa geopolitica spesso ha un codice geopolitico e lo suggerisce tra l'altro ai propri decisori politici, il caso della geopolitica nazionale socialista, ma anche di quella nordamericana, anche di quella russa, tutti hanno quella francese. E tuttavia io credo che la geopolitica oltre a questo abbia, al di là dei determinismi, al di là quindi degli estremismi anche di carattere ideologico, abbia anche una sua valenza esplicativa, perché la geopolitica può dire da un lato lo Stato deve fare, ma dall'altro lato la geopolitica può dire anche lo Stato sta facendo questo perché ha questa sensibilità per lo spazio. Quindi io non credo che sia in realtà tutto il discorso geopolitico liquidabile come una pura e semplice ideologia o ideologia imperiale. Secondo elemento, racchiuderei due osservazioni che sono state fatte sotto la stessa etichetta. Allora, il tema dell'identità e il tema della non coincidenza tra spazi economici, politici e simbolici. E tutte e due queste cose in realtà credo che siano degli elementi di continuità storica. Tanto per cominciare, l'identità. Noi oggi diciamo la politica internazionale, la politica interna, la politica soprattutto in certe aree regionali è dominata dal tema dell'identità e normalmente quando parliamo di identità oggi intendiamo i fondamentalismi. Ma in realtà l'attività politica è sempre dominata dall'identità. Allora ci sono diversi modi di definire la propria identità politicamente. Lo Stato stesso propone, anzi impone un proprio modello di identità. L'idea che oggi noi ci troveremmo in una sorta di delirio identitario, ma a mio avviso va un po' comparata anche con altri contesti storici, a cominciare per esempio da un contesto storico che conosco molto anche dal punto di vista letterario, cioè quello del primo Novecento. Il primo Novecento è ossessionato dall'identità. La letteratura del primo Novecento, la riflessione politica del primo Novecento è letteralmente ossessionata al tema dell'identità. Se mi consenti, è esattamente il periodo in cui abbiamo la balcanizzazione del sistema internazionale e la prima guerra mondiale. Ma anche le ideologie universali sono dei modi di risolvere, certo, politicamente, direi quasi antropologicamente, il proprio problema identitario. Per cui in realtà non si sfugge al tema dell'identità muovendosi socialmente, tra l'altro muovendosi politicamente. È chiaro che risolvere il problema dell'identità con un'ideologia universale piuttosto che con un richiamo etnico, piuttosto che con un richiamo religioso, significa risolverlo in modo diverso, ma io credo che il tema dell'identità sia dal punto di vista politico ineludibile. Allora, il soggetto, okay. Con un ulteriore elemento, anche se non vorrei a questo punto essere sospettabile, perché dalla geopolitica passo a Carl Schmitt, che è a propria volta un autore nazionalsocialista. Molto simpatico Carl Schmitt. Intendo che politicamente, oltretutto, il tema dell'identità si pone schmittianamente con una fortissima vocazione polemica. Allora, politicamente l'identità si pone nei termini che Schmitt riassume nella coppia amico-nemico. Allora, io mi definisco politicamente intanto in quanto mi definisco contro qualcun altro. E anzi, politicamente io non riesco a definirmi se non contro qualcun altro. Quindi credo davvero che la sfida dell'identità o l'intralcio, se volete, dell'identità sia non evitabile nella sfera di cui stiamo parlando, così come non penso che sia una specificità del nostro contesto storico il fatto che gli spazi politici, quelli economici e quelli simbolici non coincidano. Anche in questo caso non soltanto gli spazi politici e quelli economici, ma gli spazi politici e quelli simbolici non hanno mai coinciso. Pensate soltanto al tema, a uno delle grandi preoccupazioni di tutti i movimenti nazionali e nazionalistici nell'Ottocento, la soluzione Kleindeutsch e Grossdeutsch in Germania, cioè la necessità, l'impossibilità in realtà, di mettere insieme i propri richiami simbolici, linguistici, storici, antropologici con i confini del proprio Stato-Nazione che si sta immaginando. Non c'è mai perfetta coincidenza. Chi finge che ci sia coincidenza sta fingendo. Quindi quello che a mio avviso connota il contesto attuale non è il fatto in sé che non ci sia coincidenza, ma come questa non coincidenza si presenta. Terzo aspetto, la globalità. È vero, l'espressione, l'aggettivo globale è polisemico. Aggiungerei un altro significato. Allora, è stato detto che l'aggettivo globale può essere impiegato in contrapposizione all'aggettivo locale e all'aggettivo settoriale. Ecco, nell'ambito dello studio delle relazioni internazionali, persino nell'organigramma dei corsi di laurea di questa facoltà, in realtà c'è un altro aggettivo al quale l'aggettivo globale può essere contrapposto, e cioè l'aggettivo internazionale. E non fate l'errore di fare coincidere globale e internazionale, perché chi usa l'espressione globale, per esempio l'espressione politica globale, l'espressione governance globale, l'espressione guerra globale, in realtà ha come proprio obiettivo polemico fondamentale la separazione moderna di carattere politico-giuridico tra ambito interno e ambito internazionale. Allora, l'aggettivo globale allude a un contesto storico e sociale nel quale non c'è più posto per distinzione tra ambito interno e ambito internazionale. La globalità è un luogo di dissoluzione di queste categorie, è un luogo nel quale ciò che è interno è contemporaneamente internazionale e ciò che è internazionale è contemporaneamente interno. La distinzione non tiene più. Poi le domande più specifiche. Allora, gli scenari. Innanzitutto questi scenari vanno, come qualcuno di voi ha osservato, non vanno separati troppo rigidamente. È chiaro che il futuro, i prossimi decenni, non saranno l'entrata in uno di questi scenari, ma saranno diverse combinazioni tra questi scenari. Noi ci dobbiamo immaginare questi scenari, ammesso che poi siano gli unici che ci possiamo immaginare, probabilmente ce ne sarebbero altri, ma come dei materiali che saranno più o meno diversamente combinati. Ecco, io rispetto a tutto quello che avete detto voi, avrei qualche perplessità, o comunque lascerei qualche dubbio sulla impensabilità di una globalizzazione a guida americana. Io direi che il tema del declino è stato il giro vitale degli Stati Uniti negli ultimi 40 anni, perché gli Stati Uniti hanno continuato a parlare ossessivamente del proprio declino all'inizio degli anni 70 e la cosa in realtà ha portato più fortuna agli Stati Uniti che agli altri. Non c'è dubbio che l'immagine degli Stati Uniti come potenza egemonica e solitaria che ha perseguito George Bush, quell'immagine è fallimentare. Quell'immagine credo che non potrà essere riproposta, quel fallimento è il fallimento di quell'opzione di qui ai prossimi decenni, ma non c'è soltanto quell'opzione. Ecco, non fate l'errore che fanno molti giornalisti di credere, per esempio, che Barack Obama sia un anti-egemonico. Leggete l'ultima National Security Strategy appena pubblicata, che trovate nel sito del Dipartimento, anzi nel sito della Casa Bianca. E la National Security Strategy pubblicata dall'attuale amministrazione di Barack Obama fa in modo rituale, quasi liturgico, riferimento alla leadership americana, una pagina sì, una pagina no. Quindi gli Stati Uniti non hanno affatto rinunciato alla propria leadership, hanno rinunciato a un modo di esercizio della propria leadership. Io credo che abbiamo molte ragioni di dubitare della possibilità degli Stati Uniti di svolgere questo ruolo, ma abbiamo almeno altrettante ragioni di dubitare della capacità di altri attori di svolgere un ruolo simile anche su scala regionale. Noi non siamo sicuri di quanto staranno bene gli Stati Uniti tra 20 anni, ma in realtà non siamo sicuri neanche dell'India, non siamo sicuri neanche della Cina, non siamo sicuri di nessuno dei grandi paesi dell'attuale contesto internazionale. Quindi io non seppellirei gli Stati Uniti troppo presto, anche se è probabile che quello che voi pensate si realizzi. I punti fermi delle relazioni internazionali, c'è una ragione molto forte, molto, molto semplice se volete. La politica internazionale si differenzia tradizionalmente dalla politica interna sulla base di un elemento, che è un elemento di grande rilievo. Si dice che la politica internazionale, che il sistema politico internazionale è un sistema anarchico. Per anarchia internazionale non si intende quello che spesso noi intendiamo con la parola anarchia, cioè non si intende disordine. Quando si parla di anarchia internazionale si intende un contesto sociale privo di governo. Allora, un contesto sociale privo di governo è un contesto sociale che è esposto a un problema di darsi ordine in qualche altro modo, e questa è la ragione per la quale, come diceva lei, esiste un'ossessione per punti fermi. E l'ossessione per i punti fermi nasce proprio dalla mancanza del più classico e più riconoscibile dei punti fermi, cioè il governo. E qual è il punto fermo che si cerca normalmente nelle relazioni internazionali per dare ordine senza neanche o senza potere passare da un governo? La distribuzione ineguale del potere. Cioè, ci deve essere qualcuno che in modo informale, senza essere investito del potere di usare in modo esclusivo l'uso legittimo della violenza, è qualcuno che dia ordine alla propria area regionale oppure al contesto internazionale nel suo complesso. Questa è la ragione, credo. Wallerstein, è vero naturalmente, Wallerstein parla di sistema mondo e parla della dello sviluppo delle relazioni internazionali, del sistema politico e economico internazionale come uno sviluppo globale e uno sviluppo di lungo periodo. Credo che questa sia la prestazione fondamentale della riflessione di Wallerstein, cioè sostanzialmente dalla fine del 400 ad oggi. Tutte le teorie del sistema mondo, non soltanto quella di Wallerstein, in realtà impiegano qualche forzatura per tenere insieme tutto. Pensate soltanto all'inserimento della nozione di semiperiferia tra il centro e la periferia, che è un modo di salvare sostanzialmente quello che si può salvare dell'impianto. Ma quello che è più fragile in realtà in queste costruzioni olistiche è la impossibilità sostanzialmente di tenere dentro il secondo mondo socialista, perché il secondo mondo socialista in questo sistema mondo non ci sta direi programmaticamente, perché non ci vuole stare, perché comunque non ci si riesce a metterlo. Quindi c'è una tensione che credo che lo stesso Wallerstein per certi versi riconoscerebbe. Restano le ultime due cose, lo Stato sì, e poi la questione dell'ideologia. Ecco, anche sullo Stato non stiamo a parlare della crisi dello Stato, delle prospettive, della tenuta dello Stato, perché questo ovviamente non sarebbe possibile se non a prezzo di una semplificazione quasi grottesca. Mi limito a due o tre osservazioni. La prima, non è mai stato vero, non soltanto oggi, non è mai stato vero che gli Stati abbiano controllato tutte le relazioni. Nessuno Stato è stato mai in grado di controllare tutte le relazioni economiche e sociali al proprio interno e nei rapporti tra il proprio interno e il proprio esterno. Da questo lato il tentativo estremo degli Stati totalitari di arrivare a questa prestazione era un tentativo destinato al fallimento. Nell'ambito delle relazioni internazionali io credo che sia persino superfluo, credo che sia un'ovvietà e quindi non avrebbe meritato quello che invece sta meritando, cioè una grande riflessione. Oggi ci si è abituati a parlare della sovranità come di una finzione. È ovvio, la sovranità è una finzione, come tutti i concetti giuridici è una finzione. È finzione in duplice senso. Tanto per cominciare, lo Stato sovrano non è mai stato tanto sovrano quanto si è dichiarato. In altre parole, lo Stato sovrano ha sempre dovuto tollerare l'esistenza di relazioni che non è stato o non era in grado di controllare. L'altro pezzo della finzione della sovranità è il sottinteso della finzione della sovranità, cioè l'eguaglianza. E la finzione della sovranità nella politica internazionale è stata pensata intanto in quanto tutti gli stati sovrani sono stati dichiarati egualmente sovrani e quindi formalmente uguali, e questo naturalmente è un altro pezzo clamoroso di finzione, ma di finzione riconosciuta, riconoscibile, direi dichiarata. Lei dice: noi ci troviamo in una situazione nella quale lo Stato reagisce. Lo Stato è destinato a reagire, può reagire addirittura nazionalizzando le risorse, come hanno cercato di fare i paesi dell'America Latina e che, come secondo lei, proveranno a fare i paesi africani. È possibile che questa sia una risposta, ma tanto per cominciare non è detto che sia una risposta efficace. E in secondo luogo noi abbiamo a che fare comunque con un problema che è un problema nostro, per esempio di paesi europei. Questa capacità sempre minore dello Stato di controllare queste relazioni in realtà sta provocando, e come sta provocando, una colossale crisi della rappresentanza. E sta provocando uno svuotamento interno della democrazia. E quando si ha la sensazione che lo Stato non sia in grado di controllare le relazioni sulle quali sta decidendo, ebbene allora la plausibilità della necessità di scegliere il rappresentante, quella plausibilità naturalmente entra in crisi. Questo è uno dei nostri problemi, ma anche in questo caso non è affatto un problema nuovo. Voi trovate questa riflessione già negli anni 70, c'è un libro molto bello che vi suggerisco di guardare, è una raccolta di saggi di un autore tedesco, Klaus Hoffe, si intitolava, e siamo all'inizio degli anni 70, quindi non oggi, lo Stato nel capitalismo maturo, se non ricordo male. E lì c'era quale già questa riflessione. Tu, quello del Feltrinelli? Quella è Itas Compass, credo, non mi ricordo esattamente. Ce l'ho a casa, ma non ricordo. Io lo ricordo Feltrinelli. Possibile, è possibile. E comunque già lì c'era l'idea che... Hai ragione tu, era Itas Compass. Può darsi. Che una condizione storica nella quale, diceva Otto e diceva Hoffe, il governo decide dicendo che sta decidendo quella cosa perché non poteva fare diversamente, perché le pressioni globali gli impongono di fare quella cosa. Ecco, un sistema sociale di questo tipo è un sistema sociale destinato a creare una crisi della rappresentanza. L'ultima cosa sulla globalizzazione ideologica della quale mi chiedeva lei. Io non alludevo semplicemente all'esistenza di linguaggi. Anche oggi noi abbiamo dei linguaggi che più o meno plausibilmente si pongono come linguaggi universali. Io alludevo a linguaggi di un tipo particolare, cioè linguaggi antagonistici. Nel Novecento noi disponevamo di linguaggi antagonistici su scala universale. Per tornare alla coppia di cui dicevo prima, cosa? Ma compenetrati. Compenetrati, in grado di comunicare tra di loro, obbligati tra l'altro, perché questa era la cosa rilevante. L'esistenza di linguaggi antagonistici universali obbligava ciascun attore a tenere conto delle reazioni che gli altri avrebbero avuto al proprio comportamento. Allora, se io penso di poter sedurre qualcuno, io non faccio qualche cosa che mi rende impossibile la seduzione. E fino a che io ho fiducia nella possibilità di sedurre gli altri, io mi comporto in modo tale da non pregiudicare questa possibilità. Faccio l'esempio di una cosa di cui mi sono occupato a lungo, cioè il terrorismo. Se voi pensate al terrorismo degli anni 70, anche al terrorismo internazionale degli anni 70, penso per esempio alle imprese del terrorismo palestinese in Europa negli anni 70. Allora, il terrorismo palestinese in Europa negli anni 70 aveva da un lato una motivazione molto simile a quella che ha tuttora il terrorismo di Al-Qaeda. Il terrorismo è una forma di denuncia, una forma di comunicazione, paradossalmente, è un modo di tenere una questione al centro dell'agenda internazionale, oltre che tante altre cose. E il terrorismo funziona naturalmente intanto in quanto produce shock, intanto in quanto si impone come elemento di comunicazione. Se non che il terrorismo palestinese degli anni 70 aveva un problema, del quale tiene continuamente conto, e cioè che la violenza impiegata non deve essere tale da pregiudicare la nostra capacità di piacere agli altri. Se io vado in Europa a dirottare un aereo, non devo fare una cosa così mostruosa da pregiudicare la simpatia che tanti europei possono avere nei miei confronti. Al-Qaeda non si pone più questo problema, perché Al-Qaeda dà per scontato che tra il proprio linguaggio e quello degli altri è caduto un abisso. E se voi sentite i messaggi di Osama Bin Laden o di Ayman al-Zawahiri e li confrontate con quelli di, che so io, di Yasser Arafat, ma anche dei gruppi più radicali palestinesi degli anni 70. Abbas. Esatto. Manca totalmente il confronto con l'altra opinione pubblica. Osama Bin Laden e Ayman al-Zawahiri si rivolgono all'opinione pubblica islamica. E non necessariamente perché sono paranoici o non necessariamente perché sono entrati in una specie di spirale autistica dal punto di vista del linguaggio, ma perché non hanno fiducia. Cioè, non hanno fiducia nella possibilità di convincere qualcuno al di fuori di quell'area culturale. E con la caduta di quella fiducia cadono tutte le inibizioni. Perché a questo punto dice giustamente, dal punto di vista razionale, strategico, perfettamente, in modo perfettamente coerente Ayman al-Zawahiri, l'unica cosa, l'unico linguaggio che gli occidentali comprendono è il terrore. Una cosa che Arafat non avrebbe mai potuto dire. Prego. Ma io ho due domande. Una, affrontando la questione del potere, ma anche della possibilità di guerre globali, non è stato mai parlato, cioè non è mai esplicitato il fatto dell'arsenale atomico, no? Degli stati. Allora mi chiede appunto quale fosse il ruolo del possessione della guerra atomica. E l'altra domanda era, in tutte queste analisi di suddivisione e aggregazione degli stati o del sistema mondo, vogliamo vedere se c'è qualche altra domanda? Sì, sì, sì. Forza ragazzi, di. Vabbè, adesso non esageriamo, non andate a dire ai miei colleghi che ho detto che la globalizzazione è una cosa vera che mi linciano. No, però abbiamo un po' stupito, nel senso che io tengo sempre a trasportare questo sentore differente delle varie città, anche della vita di tutti i giorni. Allora, mentre posso capire che argomenti come l'ecologia, il web, lo spazio, Forza, ultimi, forza, vengo. Io ho una domanda, nel senso, una richiesta di chiarimento, di precisazione. Ci sto pensando da un po', forse sbagliando, sto vedendo telegiornali o comunque leggendo un po', vedo che a fronte di questa mobilitazione e questa regionalizzazione, che forse sbagliando, io comunque vedo una regionalizzazione sì per aree, ma aree comunque abbastanza grandi in influenza, non piccole aree. Paesi che hanno all'interno dove recentemente scoppiano contrasti tra popolazioni che prima sì, non stavano da pochissimo, avevano i loro battiti, ma comunque bene o male non si sono sparati per quei tempi, invece che ne so, in diversi paesi. E quindi c'è qualcosa che non mi torna in sostanza nel fatto di dire di avere questi sistemi, queste grandi aree di influenza, quando poi all'interno c'è una costante richiesta. C'è una costante chiusura, vediamo anche in Italia, dove c'è una costante voglia di dire noi siamo diversi dagli altri, non siamo così, una chiusura. Insomma, se poi diciamo che vogliamo dire che vogliamo avere delle aree, però non riusciamo a dare neanche d'accordo tra noi e le aree più piccole, insomma, questa regionalizzazione rischia di diventare una frammentazione incredibile. Beh, forse Aldi di fine stagione. Uno? Sì, io sono rimasto piuttosto colpito dall'esempio del conflitto coreano, cioè io ricordo perfettamente quello che potrà essere il terrore della degenerazione del conflitto in Corea, e tra l'altro in parte c'è stato. Certo, è stato uno proprio dei momenti di militarizzazione della guerra fredda, certo. E così, non so, mi sembra quasi forse una provocazione che magari faccio anche a me stesso. Voglio dire, forse il crollo del sistema globale così e la parcellizzazione dei sistemi regionali, tutto sommato forse non è tutto, non, mi viene quasi da dire che non tutto il male viene per nuocere, cioè nel senso che intanto ho meno paura io del conflitto in Corea. E poi forse tutto sommato la liberazione così della logica dei blocchi forse porterebbe a una soluzione in qualche modo, magari attraverso comunque uno scontro di quello che è una situazione tutto sommato insostenibile in Corea del Nord. Quindi il ridisegno dell'assetto mondiale forse non è proprio tutto completamente negativo. Il Rimolinelli. Penso anche per esempio al fatto che il crollo del muro abbia contribuito alla democratizzazione, per esempio, la percontata di democratizzazione in Africa. Dunque, no, io faccio sempre a Wallace Stutter, che è uno dei pochi che conosco tra l'altro male. Io sono d'accordo con i colleghi quando non credevano molto nelle prime ipotesi dell'epilogo, diciamo, di questa situazione, cioè di una rinascita americana. Perché mi sembra di ritrovare nella strategia americana degli ultimi anni un po' quello che Wallerstein taccia come il sintomo della caduta di un po' il ruolo di guida di un sistema produttivo, un processo produttivo. Cioè Wallerstein mi sembra di ricordare che dice che quando un processo produttivo centrale entra in crisi cerca di rafforzare la sua posizione attraverso il rafforzamento militare. A me sembra proprio che gli Stati Uniti nell'ultimo decennio abbiano intrapreso questa strada, cioè quella di andare a rafforzare le proprie posizioni militari in Iraq, in Afghanistan, quando però questo ha portato da un lato a una, mi sembra, un indebolimento dal punto di vista economico, perché la spesa per mantenere queste due guerre comunque non è rilevante, e dall'altro ha favorito il sorgere, se vogliamo, di un'altra potenza dal punto di vista economico come la Cina. Volevo sapere se per lei, cioè, questo scenario è reale o è di altro punto. Cosa faccio, rispondo a questo punto? Finiamo anche sono le 12:05, naturalmente sì, puoi prendere anche un po' di minuti in più. Allora, gli arsenali nucleari, dunque innanzitutto, come sappiamo, l'arsenale nucleare di per sé non è un segmento di interconnessione, è necessario perché l'arsenale nucleare lo sia che sia accoppiato a vettori in grado per l'appunto di portare le armi a distanza. E fino adesso questi vettori li possiedono in realtà molto pochi attori, un numero molto molto limitato di attori. Ma ci possiamo aspettare che entro qualche anno, entro pochissimi anni, saranno molto di più gli attori che disporranno e di armi nucleari e di vettori, e questo potenzialmente è un elemento di connessione, questo sì. Ma vale lo stesso che vale per internet, e questo è un elemento di connessione nel momento in cui c'è qualche ragione politica per impiegarlo in questo modo. Cioè l'esistenza di uno strumento mette in condizione di collegare ad altri, ma non è sufficiente a collegare ad altri. E perché lo strumento venga impiegato come strumento di connessione ci deve essere qualche cosa in più che in questo momento non c'è, perché non c'è una competizione su scala globale. Questa peraltro è una delle poche notizie indubbiamente buone che abbiamo sull'attuale contesto internazionale. Noi ci siamo abituati, voi ancora una volta credo più di me, ma ci siamo abituati a una politica internazionale priva della possibilità di una guerra diretta tra grandi potenze. Allora, questa idea della politica internazionale priva di questa eventualità è un'idea storicamente eccezionale, perché la politica internazionale fino a 30 anni fa è stata continuamente dominata dal rischio di una guerra tra grandi potenze, quindi non dal rischio della guerra, ma dal rischio della guerra tra grandi potenze. Questo era ciò che era al centro dei calcoli diplomatici strategici all'inizio del Novecento, questo è stato al centro dei calcoli diplomatici strategici nella seconda metà del Novecento. Noi da questo lato ci troviamo in una condizione storicamente eccezionale. Per le religioni, credo di che non sia casuale la ragione, cioè che non sia casuale che non ne abbia parlato, ne avrei parlato molto volentieri 20 anni fa, ne parlo molto meno volentieri oggi. Credo che questi fattori siano stati colpevolmente ignorati e trascurati dalla relazione politologica per diversi decenni. Credo che questi fattori oggi vengano sovrasignificati dal punto di vista politico. Credo che molte guerre che sono state definite in questi ultimi 20 anni guerre di religione non siano state guerre di religione, siano state guerre combattute per tutt'altra ragione. Dopodiché, naturalmente, quando si combatte una guerra, e si combatte una guerra ad alta intensità, si attinge a tutto il capitale simbolico di cui si dispone, compreso questo. Il caso, a mio avviso, più evidente di guerra che non è stata una guerra di religione, ma nella quale si è giocato da un certo momento in poi anche questo capitale simbolico in modo antagonistico, è la guerra jugoslava. Le guerre in Jugoslavia non sono nate come guerre di religione, come guerre di religione credo che le guerre in Jugoslavia non avrebbero potuto nascere. Un altro caso ovvio, insomma, di guerra che non è una guerra di religione è la questione palestinese. Chi mi dice che la questione palestinese è una guerra di religione o che è dovuta al fatto che esiste un attore che abbraccia una forma di fondamentalismo islamico come Hamas o magari Hezbollah scendendo in Libano, dice una menzogna pure semplice dal punto di vista storico. La questione palestinese ha altre radici, è chiaro che nel tempo si è arricchita anche di questo. L'immigrazione. La migrazione ci mette inevitabilmente a contatto, ma c'è contatto e contatto. Allora un conto è lo spostamento di popolazioni che imparano, io parlo soprattutto dal punto di vista politico, a condividere linguaggi comuni, che significa anche articolare in modo relativamente comune o almeno comprensibile i propri conflitti, le proprie insoddisfazioni, le proprie rivendicazioni. E tutt'altro conto è un contesto storico nel quale questo modo di esprimere rivendicazioni, questo modo di esprimere insoddisfazioni, comincia a divaricarsi totalmente. Ma basta vedere il modo stesso in cui l'immigrazione viene percepita oggi in chiave di assoluta estraneità. Io distinguerei tra il fatto oggettivo della migrazione e il fatto soggettivo del modo in cui la migrazione viene percepita. E quando il migrante porta, o apparentemente porta, o si teme che porta una simbologia politico-religiosa totalmente altra rispetto alla nostra, lo spazio della comunicazione si restringe, è inutile negarselo, lo dico con grande preoccupazione, però credo che a questo punto lo dobbiamo riconoscere. C'è un altro elemento che vi suggerisco anche di considerare, del modo in cui per l'appunto le stesse cose vengono percepite, raccontate, narrate in modo totalmente diverso. Ma pensate a quanto spesso negli ultimi 20 anni noi abbiamo usato espressioni totalmente vuote dal punto di vista della comprensione della realtà, come fanatismo, estremismo, eccetera, eccetera. Allora, quelli che noi oggi definiamo estremisti e fanatici non fanno affatto cose diverse da quelle che i militanti politici del Novecento facevano per tutto il secolo. E dire che il tagliagola è il fondamentalista islamico è un'ipocrisia impudente, perché l'Europa è stata piena di tagliagole per tutto il Novecento. Non solo, ma l'Europa è stata piena, oltre che di tagliagola, di testimoni che facevano il tifo per i tagliagole, da una parte e dall'altra. Il discorso è venuto fuori quando c'è stato uno che ti ha preceduto, Lamberto Liberti, che parlava di questa cosa terribile che erano i kamikaze, i suicidi, no? Le altre cose. E io gli ho detto, tu vieni da Torino dove c'è una strada intitolata, esatto, Pietro Bicca, esatto, ti dice niente, quindi il discorso è stato già. Ma appunto anche la disponibilità, per esempio, all'uccisione e la disponibilità ad essere uccisi, ma questa è stata la retorica di tutte le militanze politiche del Novecento. Fino ad avantieri. No? Esatto, fino ad avantieri, veramente, insomma. E quindi... Se queste cose, che sono degli elementi di continuità, anzi degli elementi attorno ai quali è stato costruito il concetto dell'intensità politica nel corso del Novecento, se queste cose improvvisamente degradano a fanatismo e estremismo, è perché è caduta la comunicazione, perché quel tagliagola parla un linguaggio che a me è sconosciuto, che non voglio conoscere, che non faccio neanche lo sforzo di capire, e quindi lo stesso atto diventa un'altra cosa. Ma non perché lo sia oggettivamente, perché così naturalmente lo percepisco io. Vado molto velocemente. Appunto. Sì, quello che diceva sulla rottura interna, sul emergere di fratture, è tutto un pezzo della ricostruzione dell'identità in realtà. Nel momento in cui viene meno una identificazione, è giusto cercarsene altre. La cosa paradossale è che è giusto che sia così, nel senso che noi non possiamo vivere senza identificarci con qualche cosa. E quindi nel momento in cui viene meno un'identificazione, per esempio quella nazionale, beh, è naturale che altre forme di identificazione si vadano a cercare a qualche altro livello, magari anche a quello subnazionale. Ma questo è un discorso troppo lungo e che credo che detto così sia anche un po' caricaturale. Ecco, se la regionalizzazione, se la scomposizione sia un fatto positivo o un fatto negativo, non mi sento di dirlo. Io mi limito a dire che ci sono degli elementi di liberazione per chi ha vissuto almeno un pezzo del Novecento, e ci sono anzi dall'altro lato però degli elementi di preoccupazione. L'elemento di liberazione fondamentalmente è la fine del terrore dell'escalation, cioè la fine del terrore che qualunque conflitto possa diventare il conflitto globale. Se non che naturalmente il venire meno di questo incubo dell'escalation, della globalizzazione del conflitto, ha l'altra faccia, e cioè diventa una condizione permissiva per i conflitti regionali. Mentre il timore dell'escalation funzionava come una sorta di principio di cautela, c'era un'indiadi essenziale nella seconda metà del Novecento, per esempio, tra escalation e intangibilità. Tutto era intangibile in tanto in quanto tutto toccato avrebbe potuto provocare la catastrofe definitiva. Ecco, venuto meno il terrore dell'escalation, si è aperta una condizione permissiva per i conflitti regionali che all'epoca del bipolarismo non c'era. Quindi questa è già la ricaduta, diciamo, una prima ricaduta negativa. La seconda ricaduta negativa, malgrado tutte le retoriche, gli universalismi, io credo, ipocriti perché molto a buon mercato degli ultimi 20 anni, c'è, io credo, una crisi della solidarietà politica. C'è una crisi effettiva della solidarietà politica, cioè l'idea di sentirsi coinvolti da ciò che avviene altrove, nel momento in cui viene meno il linguaggio comune, credo che entri automaticamente in crisi. Ecco, io penso, per esempio, non voglio fare valutazioni politiche, ma io credo che l'opinione pubblica giovanile, per esempio, indipendentemente dalle preferenze politiche, tra l'altro, non avrebbe potuto essere così sorda e indifferente a quello che avviene da 3 anni a questa parte a Gaza, in un contesto culturale nel quale ci fosse maggiore comunicazione linguistica tra chi vive a Gaza, la propria disperazione, e chi vive fuori. Ancora una volta Wallerstein. Ci aggiungo un altro autore che è un allievo di Wallerstein, è un autore che tanto vi consiglio di leggere, cioè Giovanni Arrighi. È in parte vero, ma potremmo suggerire una lettura un po' malevola anche di Wallerstein e di Arrighi, che sono autori che amo. Lei dice, Wallerstein, e lo stesso vale quasi a maggior ragione per Arrighi, ci ricostruisce una serie di passaggi storici in base ai quali possiamo dire che gli Stati Uniti oggi si trovano nel ciclo declinante sostanzialmente. I critici di Wallerstein e di Arrighi direbbero, Wallerstein e Arrighi ci ricostruiscono la storia del sistema mondo proprio perché hanno in mente questo esito. Allora, dato che sono appassionati all'idea che gli Stati Uniti sono in declino, ci ricostruiscono tutta la storia dei quattro secoli precedenti in modo da mettere gli Stati Uniti all'inizio del declino. E devo dire che qualche volta, anche leggendo l'ultimo libro che pure ho apprezzato moltissimo di Giovanni Arrighi, qualche volta la sensazione che questa forzatura ci possa essere emerge. Io non voglio fare previsioni, sarebbe ridicolo fare previsioni sul futuro, io non so se gli Stati Uniti staranno bene o male tra 10 o 20 anni, tra 30 anni, gli Stati Uniti sicuramente stanno molto peggio oggi di quanto non stavano 10 anni fa, su questo non ci sono dubbi, è presumibile che gli Stati Uniti tra 10 anni staranno ancora peggio. Quello che io suggerisco è di porsi tuttavia la stessa domanda anche su tutti gli altri. Se io dovessi scommettere sulla salute degli Stati Uniti e della Cina tra 20 anni, io malgrado tutto quello che ho detto degli Stati Uniti negli ultimi 20 anni, malgrado tutte le critiche che ho rivolto alla politica estera americana negli ultimi 20 anni, io malgrado tutto questo scommetterei ancora sugli Stati Uniti. Io non so se gli Stati Uniti staranno peggio della Cina tra 20 anni, noi sappiamo con certezza per esempio che la crescita della Cina è squilibrata, noi sappiamo con certezza che la Cina va incontro a una serie di soglie che sono soglie critiche. Allora è verissimo e giustissimo dubitare della capacità di autoriproduzione del sistema politico ed economico americano, ma credo che a maggior ragione ci si debba porre questioni simili anche su tutti gli altri attori. L'ultimissima osservazione con la quale chiudo, io vi suggerisco di andare a leggere quello che si scriveva all'inizio degli anni 90, ma si scriveva non sui quotidiani, sulle riviste specialistiche di relazioni internazionali. All'inizio degli anni 90 si dicevano le stesse cose che si dicono adesso, e cioè che gli Stati Uniti erano entrati in una crisi terminale, che non c'era più nulla da fare per loro e che erano già evidenti i nomi degli attori degli stati che avrebbero preso i loro posti. Allora si facevano due nomi, si parlava di un testa a testa, di un testa a testa con gli Stati Uniti in posizione difensiva, e i due protagonisti del XXI secolo avrebbero dovuto essere, si diceva allora, tutti lo dicevamo, l'Unione Europea e il Giappone. Ecco, oggi possiamo dire sia dell'Unione Europea che del Giappone che gli Stati Uniti hanno perso qualcosa negli ultimi 20 anni, ma l'Unione Europea e il Giappone hanno perso molto di più. È per questo che sarei molto cauto anche sul futuro, ma cauto, non di più, non mi sentirei di fare previsioni. Il libro di Giovanni Arrighi, di cui diceva Alessandro Colombo, è Smith a Pechino, credo che sia quello... No, dicevo ancora prima, quello, il lungo XX secolo. Il lungo XX secolo, tutti e due Feltrinelli. Per il consiglio. Beh, domani ci vediamo puntuali per piacere per l'ultima lezione, così vi liberate dalla mia presenza, che sarà con il professor Aliberti e sarà finalmente i modelli di simulazione d'asilo in sede pratica. Grazie. Grazie a te. Che ti parlo di mia ragazza? Cos'è? Sono malissimo. Estremamente attivo. Sotto tortura con applicazioni di elettrodi. Lei ha detto che ai tempi si diceva che l'Unione Europea e Giappone sarebbero stati grandi leoni. Io ci ho mai creduto sull'Europa, neanche io sono mai tanto per... Io ci ho sperato, però da ragazzino mi ricordo si parlava anche della Russia, della rinascita russa, quando ero ragazzino. Le primi anni 90. Ma manco quando ero ragazzino tutti allora, stavano morendo. Allora, quando ero ragazzino avevo letto. Ma non eri nato. La Russia si temeva di tutti i quasi di l'86 87 non ci abbiamo sperato nessuno. No, la Russia, guarda, della Russia si è parlato come di una grande potenza di emergenti in realtà due stati fa. La potenza riemergente. Sì, da quando sono esplosi la prezzo di petrolio. Questo è stato il momento. Più che altro per le azioni di Putin. Sì, ma le azioni di Putin, ma soprattutto il fatto che la Russia a tutt'oggi comunque dipende da quello che sia parte delle aziende delle prime. È chiaro che il paese ha beneficiato di più di questo internazionale. Andiamo. Però all'inizio degli anni 90 addirittura Lucia si temeva fosse entrato. Ah, certo. Comunque sappi che di vizio gli porto addirittura le fotocopie degli articoli che mi chiedono.